Poco fa c'è stata questa scena quasi impossibile che il Corral, con un enorme poliziotto con la maschera antigas che si è messo di fronte a tutto lo schieramento con le mani ben piantate sui fianchi per rispondere praticamente agli insulti dei manifestanti, e un altro, il capo della Digos, che li comanda, che diceva: se avete i coglioni venite qua, fateli avvicinare, se hanno i coglioni verranno qua. Rimane comunque sempre questo fortissimo odore acre di fumo, gli occhi lacrimano, e chi può, chi ha fatto adesso, se lo mette sopra il naso. Partendo proprio in questo momento il corteo dei sindacati di base, noi ci troviamo in Piazza Montano nel Ponente Ligure. In apertura di corteo lo striscione Kub Zlaikobas contro tutte le forme di dominio, di discriminazione e di oppressione. La situazione qua è estremamente tranquilla, molto colorata. Oltre allo Zlaikobas vi segnalo la presenza dei vigili del fuoco presenti in massa subito dietro le bandiere delle RDB, e poi gli anarchici che sono arrivati da Ravenna, Forlì, da Imola, e i gruppi anche francesi. Tra i greci invece troviamo l'organizzazione marxista rivoluzionaria ed altre formazioni, pochi che sono riusciti ad entrare in Italia.